it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet days are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte e ciao a tutti. Prima di tutto buon anno, perché questa è la prima trasmissione della coordinamenta del 2014. E diciamo che proprio bene non è cominciato e proprio bene non è finito, perché come prima notizia flash di questa prima trasmissione ne abbiamo una che è dell'ultimissima ora, dell'ultimissima mezz'ora, dell'ultimissimo minuto, cioè hanno messo l'ennesimo bombone alla sede femminista e lesbica del 22 di Via dei Volsci. Allora, non è l'ultimo di questa sera, però è già il terzo, il quarto, mi pare di aver perso il conto, perché è cominciata come al solito alla fine dell'anno ed è continuata due o tre volte una dietro l'altra. È il terzo lucchetto già che cambiamo. Allora, intanto vi leggo il comunicato che le compagne femministe e lesbiche del 22 hanno fatto qualche giorno prima della fine dell'anno, e adesso ci sono questi ultimi risvolti di questa sera. Comunque vi leggo il comunicato. La repressione ha tante facce. Eccoci qua allo scadere dell'anno con l'ennesimo attacco dinamitardo alla sede femminista e lesbica di Via dei Volsci 22. È stato introdotto un bombone all'interno della sede che ha procurato gravi danni, usati ora in maniera strumentale e pretestuosa dalla proprietà. Questa ha repentinamente allertato i vigili del fuoco, i quali hanno dichiarato i locali confinanti inagibili. Sì, perché questo è un inciso mio, proprio quando è stato messo il primo bombone che ha procurato diversi danni, la proprietà ha chiamato anche i vigili del fuoco che sono accorsi in mantenente, hanno dichiarato appunto i locali confinanti inagibili. Continuo con il comunicato. Sono 4 anni che la proprietà prova a mandarci via e a mettere all'asta i locali. Sono 4 anni che resistiamo e impediamo l'accesso nella nostra sede all'ufficiale giudiziario, che poi, sempre inciso mio, è un'ufficiala giudiziaria di solito. Beh, dove non arriva lo Stato, dove le società immobiliari e finanziarie trovano la nostra resistenza, ci pensa la bassa manovalanza dello spaccio di San Lorenzo, funzionale al mantenimento del controllo del territorio in difesa di interessi economici della Bamba Spa, altra faccia della repressione che ci vuole sottomesse e docili. Noi Via dei Volsci l'abitiamo da anni e non ci cacceranno né le aggressioni sessiste e lesbofobiche, né le bombe, né tantomeno le minacce di inagibilità che la proprietà vorrebbe usare contro di noi. Sappiamo quanto sia importante che i luoghi separati da alcune restino liberati per che i luoghi liberati da alcune restino liberati per le altre, in modo da accogliere sempre il possibile delle esperienze politiche di tutte le femministe e le lesbiche. Per questo ci avranno solo e sempre guerrigliere, ci avranno sempre in lotta contro tutte le forme di oppressione, contro tutte le strategie per ridurci al silenzio. Le compagne femministe e lesbiche del 22. Allora, questo è il primo comunicato. Dopo questo comunicato hanno messo altri due bomboni che hanno fatto altrettanti danni. È stata fatta un'assemblea, si sta organizzando per sabato 18 gennaio, si stava organizzando e si organizzerà ancora per sabato 18 gennaio una giornata intera di solidarietà, di mobilitazione al 22 per quello che è accaduto, per i fatti accaduti, e quindi avevamo pensato e pensiamo ancora di chiedere alle compagne di tenersi libere per sabato 18, no? Per così da partecipare numerose. E quindi avevamo pensato di fare e faremo assemblee, riunioni in proposito, e comunicheremo le modalità e gli orari di questa iniziativa di sabato 18. Però stasera, questo pomeriggio e questa sera, un'altra volta hanno messo l'ennesimo bombone, hanno fatto saltare l'ennesimo lucchetto, hanno la porta un'altra volta rovinata, abbiamo dovuto ricomprarlo, abbiamo dovuto richiamare il fabbro, quindi adesso decideremo cosa fare. L'unica cosa che possiamo dirvi è che noi da Via dei Volsci non ce ne andremo né adesso né mai, e che, come avevamo scritto nel primo comunicato, ci avranno solo e sempre guerrigliere, e ci avranno sempre in lotta contro tutte le forme di oppressione, contro tutte le strategie per ridurci al silenzio. Comunque, visto il comunicato che abbiamo letto, visto i recentissimi avvenimenti, chiediamo a tutte le compagne di seguirci, di stare un attimo allerta, perché qualsiasi cosa succeda, speriamo di essere in tante. Ed ora volevamo leggervi un comunicato di una bella iniziativa fatta dalle compagne della consultoria di autogestita di Milano il 4 gennaio davanti all'ospedale di Niguarda. La consultaria segnala nuova iniziativa contro la presenza dell'integralismo cattolico di fronte agli ospedali. Sabato 4 gennaio 2014, come ogni primo sabato dei mesi dispari, ancora una volta i preganti antiabortisti del comitato No 194 si ritroveranno davanti agli ospedali di diverse città durante una maratona di 9 ore di preghiera contro aborto ed eutanasia. Molesteranno le donne di passaggio con i loro manifesti splatter e le loro litanie colpevolizzanti. Come se ciò non bastasse, nel resto del tempo si impegnano a diffondere una propaganda omofoba, transfobica e razzista. Che due ovaie. Di fronte a questo rigurgito, rivendichiamo l'autodeterminazione dei corpi, fermamente convinte che sarà una risata a seppellire questi cattolici integralisti. Quindi, anche in questa occasione, non mancherà il solito appuntamento di disturbo, irrisione e sberleffo nei confronti dei preganti. La nostra azione sarà ovviamente rivolta anche a denunciare la situazione all'interno degli ospedali e dei consultori, dove continua a crescere la presenza dei cosiddetti movimenti per la vita e degli obiettori di coscienza. Fra medici, infermieri, anestesisti, la percentuale di obiezione a livello nazionale supera ormai il 70%. Diamo appuntamento con scope, cappelli da strega, pentole e mestoli, ma anche vin brûlé, cioccolata calda e torte. Ci ritroveremo alle 10:30 e vabbè, qui c'è l'appuntamento. E auguriamo il diffondersi di iniziative simili nelle altre città in cui saranno presenti i feticisti in questa giornata. E noi ricordiamo, insomma, che come ogni anno anche qui a Roma, purtroppo, insomma, città poi del Vaticano, ogni metà maggio abbiamo qui la giornata della vita promossa da tante personalità di spicco della politica e ovviamente, insomma, religiose, e quindi, insomma, sappiamo di che cosa si tratta e appunto speriamo che iniziative di questo genere si riescano a diffondere sempre di più. Poi giovedì 9 gennaio, che sarebbe poi domani, dalle 11 alle 14, ci sarà un presidio di fronte all'ambasciata francese a Roma, piazza Farnese all'angolo con via dei Baullari, per verità e giustizia per Sakine, Fidan e Leila. Sakine, Fidan e Leila, non so se voi ve le ricordate, sono tre combattenti curde. Sakine Kansic, cofondatrice del PKK, Fidan Dogan, rappresentante del Congresso Nazionale del Kurdistan con sede a Bruxelles, Leila Soylemenets, giovane militante, sono state uccise a gennaio dello scorso anno con un colpo di pistola alla nuca nei locali dell'Istituto Curdo di Parigi. E le modalità e la tempistica di quanto accaduto quella volta ci facevano e ci fanno presumere con fondatezza che le vicende siriane, per esempio, non siano estranee a queste esecuzioni. Però a un anno dall'assassinio ancora non c'è verità e giustizia per le tre militanti assassinate, e gli avvocati e le famiglie delle tre vittime hanno chiesto l'identificazione dei mandanti di questo triplice omicidio, che è una chiara esecuzione politica. E c'è un comunicato fatto dalla comunità curda in Italia, dalla rete italiana di solidarietà con il popolo curdo, e se volete sul nostro blog in data 12 gennaio 2013 c'è un testo di analisi di quanto è accaduto un anno fa, proprio in occasione dell'assassinio. Quindi ribadiamo il presidio domani dalle 11 alle 14 di fronte all'ambasciata francese a Roma. volevamo invitare tutte le compagne all'assemblea pubblica a Via Ostense 237 all'occupazione delle Cagne Sciolte per organizzare una passeggiata collettiva. Sarà sabato 11 gennaio alle ore 17 in Via Ostense 137 e un'assemblea in cui si vuole riprendere i nostri spazi e prendersi i luoghi del quartiere dove non ci sentiamo più nostri per attraversare la città come quando diciamo noi quindi insomma vi ricordo l'appuntamento sabato 11 alle 17 a Via Ostense 137 alle Cagne Sciolte. Eu cheguei no final. Oh, oh, oh, oh. Ariana, oh, oh, Ariana, oh, oh, oh, oh. Eu quero passar. O samba está animado, pois eu quero samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto. Mais que nada, o samba comece tão legal. Você eu cheguei no final. Come al solito, la prima parte della nostra trasmissione, al di là dei comunicati che oggi erano tanti, è dedicata a delle notizie che ci hanno colpito particolarmente durante la settimana, in questo caso insomma durante queste feste. E ne abbiamo scelte due che sono molto diverse tra di loro, però che rappresentano bene certe situazioni che ci riguardano. Allora, una è presa. Riguarda le pensioni. Allora dice: pensioni, si allontana ancora l'età del ritiro per le donne. Ed è un articolo particolarmente interessante, non tanto per l'ennesimo discorso sulle pensioni e compagnia bella dell'ennesimo economista che dice dal 1 gennaio per la vecchiaia serviranno fino a 64 anni e 9 mesi, no? Per le donne. Ma perché fa un piccolissimo excursus su quello che è stato il processo per l'adeguamento dell'età pensionabile delle donne a quella dei maschi. Siccome il problema dell'emancipazione è un problema di adeguamento allo sfruttamento, questo bellissimo pezzettino è esemplare, adesso ve lo leggo, di come come è stato messo in atto questo meccanismo. No, dice: la pensione di vecchiaia delle donne si allontana sempre più. A parte il fatto che noi non siamo per delle lotte categoriali, quindi per dei trattamenti di favore, bensì per il riconoscimento di tutto il carico lavorativo che ci viene scaricato addosso. E comunque, se uno dovesse veramente pensare, una dovesse veramente pensare a un'equiparazione formale tra maschi e femmine, allora abbassiamo l'età pensionabile per tutti, no? Allora, la pensione di vecchiaia nelle donne si allontana sempre più. l'innalzamento del limite di età è iniziato nel 1993 con la riforma Amato, che ha portato la soglia anagrafica, sebbene gradualmente, da 55 a 60 anni. Quindi questo ribatte tutto il discorso che è sempre stato fatto dai governi cosiddetti di sinistra e socialdemocratici di adeguamento ai principi neoliberisti. Ha cominciato Amato, ricordiamocelo sempre questo, perché il neoliberismo si è imposto attraverso dei piccoli passi graduali e poi ce lo siamo trovati addosso e abbiamo scoperto che aveva cambiato la nostra vita, ma questo è iniziato attraverso i governi di centrosinistra. Allora, a partire dal 2012 poi è cambiato tutto. La legge Monti-Fornero ha infatti dato un deciso colpo di acceleratore all'equiparazione con gli uomini, già peraltro decisa dal precedente governo Berlusconi, che nell'estate 2011 aveva previsto un percorso che doveva iniziare nel 2014 per raggiungere il traguardo nel 2026. Ma non è stato così. Dal 1 gennaio 2012, infatti, l'età delle donne è salita di colpo a 62 anni, soglia alla quale già nel 2013 sono stati aggiunti 3 mesi per via dell'adeguamento alle cosiddette speranze di vita, e sarà ulteriormente elevata a 63 anni e 9 mesi nel 2014. Per le lavoratrici autonome, invece, lo scalone del 2012 è stato di 3 anni e 6 mesi, limite che salirà da 64 a 9 mesi nel 2014. Allora, detto questo, l'ultima chicca: chi non ha ancora l'età l'anno prossimo dovrà infatti accumulare almeno 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne. Allora, al di là di tutti questi dati tecnici che vengono sciorinati con grande precisione, che cosa viene fuori di fatto? Viene fuori che, primo, che i principi neoliberisti di azzeramento di quelle che erano state le conquiste degli anni 70, e comunque le conquiste sul lavoro, le conquiste per una vita diciamo più vivibile e dignitosa, sono state portate avanti alternativamente dalla sinistra, dalla cosiddetta sinistra socialdemocratica, dalla destra, dal centro. Perché i principi neoliberisti sono una scelta di fondo del sistema e ognuno si è adeguato a modo suo con degli aggiustamenti, però di fatto la sostanza è stata sempre la stessa. Dopodiché è chiaro che noi veniamo prese in giro e prese per i fondelli dicendo che questo fa parte del discorso emancipativo. Dopodiché si affossa lo stato sociale e si scarica ancora di più il lavoro di cura e il lavoro non soltanto il lavoro di cura, il lavoro di cura e riproduttivo. Noi ricordiamoci che abbiamo tutte queste due caratteristiche che ci sono state assegnate, e come diceva una volta in un film, mi pare diceva una Fantozzi, questo ruolo non glielo toglierà nessuno. Quindi mi sento molto in questa configurazione. Quindi ricordiamoci sempre in che modo sono avvenuti questi cambiamenti, e sfruttando oltretutto quella che è l'ansia e comunque il desiderio di emancipazione delle donne. Ricordiamoci sempre oltretutto che la sopravvivenza e comunque la strutturazione della società capitalistica è fatta proprio intorno alla divisione gerarchica e sessuata del lavoro e all'attribuzione dei ruoli. E ricordiamoci sempre che, come il lavoro nelle cave e nelle miniere, nel vetro e alla catena di montaggio, alla conduzione di autobus e pullman turistici, il lavoro di cura è un lavoro usurante. Poi volevo aggiungere anche un'altra cosa, più che altro un monito, un tentativo di esaltare poi le persone tutte quante a scioperare, a opporsi a questo sistema, di non accontentarsi mai di quello che viene elargito dal padrone, perché nel momento in cui viene elargito dal padrone o dallo Stato bisogna sempre pensare che effettivamente non è un un obiettivo politico raggiunto. Capisco che sia difficile e che il percorso sia tortuoso, però forse è necessario cominciare a mettere in discussione anche quel poco che in realtà ci viene dato, che capisco che in una situazione del genere fa sempre comodo, quindi non strumentalizziamo noi quello che ci viene dato al massimo, non facciamoci soggiogare da queste briciole che vengono date e non convinciamoci che in realtà poi alla fine va bene, almeno così l'abbiamo svoltata la mesata. E ricordiamoci sempre che le conquiste non sono per sempre, ma anzi si torna indietro molto facilmente. Un'altra notizia che volevamo leggervi, un po' diversa da quella letta prima, presa da Repubblica.it del 19 dicembre. Farai sesso con me una volta a settimana, il contratto shock tra assessore e segretaria. Allora, Abruzzo trovato in una perquisizione. De Fanis, responsabile per la cultura della regione, è agli arresti per tangenti. Lui era ossessionato da me, mi ha costretto, non ho potuto rifiutare. Le prestazioni venivano pagate con un forfè di 30.000 euro. Allora, l'assessore De Fanis a Pescara aveva fatto un contratto sessuale in vigore negli uffici della regione Abruzzo. Questo documento vero e proprio lo aveva redatto e sottoscritto, nero su bianco, l'assessore regionale alla cultura Luigi De Fanis, e in quel contratto il politico del PDL di 53 anni, medico eletto alla regione a suon di voti, pretendeva sesso dalla sua segretaria. La donna doveva stare insieme all'assessore, scritto testualmente nel documento, almeno 4 volte in un mese, per fare l'amore, anche questo riportato nel documento. Così è riportato nell'accordo in vigore da diversi mesi. Tutto avveniva in cambio di denaro, 36.000 euro annui. Lei, 32enne, giovane e avvenente, componente dello staff di De Fanis, e che già aveva ottenuto da lui l'incarico di componente della sua segreteria particolare da 1.200 euro al mese, peraltro senza vincere nessun concorso. Con l'ulteriore contratto, questa volta sessuale, lo aveva firmato e teneva una copia in casa. Allora, la cosa che ci ha colpito ovviamente di questa notizia in questo Natale è stata proprio quella che in cui viene descritto quasi più lei, e non solo nell'articolo di Repubblica ma anche in altre testate, lei viene descritta appunto avvenente, c'è la descrizione fisica, si fa presente che comunque lei non ha vinto nessun concorso. Io ora non so se bisogna vincere un concorso per fare la segretaria di un politico, però insomma, cioè, mi sembra veramente proprio attaccarsi a nulla, dando la colpa a lei. Lei avrà fatto le sue scelte, avrà valutato ovviamente economicamente se le conveniva o no, e ha scelto di fare questa cosa. Ma il punto non è lei cosa abbia scelto, il punto è stato che nessuna testata si è messo in testa di forse pensare che il problema è il rapporto di potere che un padrone, che un capo può esercitare sui suoi diretti collaboratori. Forse è quello il problema, cioè nel senso, se un politico, se un capo, qualsiasi grado sia, qualsiasi lavoro sia, si può permettere di richiedere molestie sessuali, sesso o quant'altro, o anche violenze psicologiche, senza avere nessun problema, è perché nessuno si è mai posto il problema che è dalla fonte che bisogna eliminare la richiesta, non chi ha accettato la richiesta, perché sennò rimane sempre il fatto che appunto per due spicci tu accetti, per due spicci tu firmi un foglio, per due spicci per mantenerti firmi la lettera in bianco, per due spicci non scioperi perché hai paura che ti licenzino oppure che comunque ti possa succedere qualcosa, e il problema va sempre visto, capito, nella parte bassa della gerarchia, della catena, quando invece sono loro che creano il problema. Anche perché poi lei dà la sua spiegazione: voglio uscire da questa storia, sono additata da tutti come quella lì e io non ho fatto nulla, però non ho preso un centesimo di quelle tangenti. Quindi lei è stata pagata per sesso, ma non è stata pagata per le tangenti, e comunque è stata indagata ovviamente, perché puzza a tutti il fatto che lei abbia ceduto. Perché quante volte ci capita di sentire vabbè, ma lei gliela avrà data, poi che capirai con tutta la questione di Berlusconi, delle oggettine delle ministre eccetera, cioè nel senso ormai ne abbiamo le ovaie piene di sentire additate solamente le donne perché accettano compromessi sessuali, quando il problema è che noi accettiamo compromessi denigratori e di oppressione tutti i giorni della nostra vita, però quelli vanno bene perché non sono legati alla questione di sesso. Il sesso è sporco, quindi lo può essere solo usato per punirci, non può essere piacere, non può essere nient'altro, e quindi ci dobbiamo adattare al fatto che così ci trattano, così ci tratteranno, ma a noi non ce ne frega niente. E siamo solidali anzi con questa donna che prosegue insomma nella sua dichiarazione: io avevo un lavoro nella sanità a tempo indeterminato, ma mi trovavo in una situazione particolare perché mia mamma stava male. È stato De Fanis a propormi di fare la sua segretaria, mi misi in aspettativa e accettai il lavoro perché avrei potuto gestire meglio i miei problemi, perché dovevo lavorare solo 3 giorni. De Fanis mi propose il lavoro anche se non ho mai partecipato alle sue campagne elettorali, anzi io ho la tessera del PD. Quindi c'è proprio quelle situazioni per cui ci si dovrebbe rendere conto proprio immediatamente che è un problema di soldi e non certo di morale. Lei dichiara appunto che ora la mia vita è un incubo, non vado più in giro per il mio paese, ricevo telefonate anonime, gente che mi vuole incontrare e che mi insulta. L'impatto dell'arresto sulla mia vita è stato devastante perché sono mamma di una piccola bambina. E quindi cioè, nel senso, ribadisco, rimane sempre un grosso sconcertante rammarico quello per cui tutta la società, perché insomma non ci sconvolge che Repubblica o che altre testate giornalistiche ovviamente ritraggano e facciano questi camei delle donne, non ci spaventa e non ci preoccupa più di tanto che lo faccia l'istituzione, però effettivamente il fatto che questa donna riceva a casa telefonate intimidatorie o anche a sfondo sessuale semplicemente perché per soldi si è avvenduto il suo corpo, mi sembra proprio inammissibile e di una mentalità veramente retrograda che ancora purtroppo è rimasta incastrata tra di noi. Sono una scelta personale, ma un'impostazione socio-economica. L'ideologia neoliberista ripropone in maniera prepotente ruoli, gerarchie, autorità. Ultimamente poi c'è chi dice che il femminismo si sarebbe venduto al patriarcato, che le femministe sarebbero funzionali al capitale. Ancora una volta la colpa sarebbe nostra. Ma confondono l'emancipazionismo con il femminismo, la strumentalizzazione delle lotte con le lotte stesse. Sono tutti ritornelli che, ripetuti come un mantra, attraversano il comune sentire, ma non sono casuali o innocentemente qualunquisti. La colpevolizzazione è uno strumento di soggezione collaudato e applicato in svariati modi alle oppresse e agli oppressi tutti. Rifiutare questo meccanismo colpevolizzante passa attraverso l'analisi materialista della storia, della memoria e del presente, passa attraverso il rifiuto dell'egemonia culturale e del dominio. Ciao. She's 22 and she's loving you, and you'll never know how it makes me blue. Does it make you happy? She make you Allora, siamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Di solito l'approfondimento riguarda un argomento particolare. Diciamo che con le notizie e con i comunicati abbiamo sforato, perché di comunicati ce n'erano tanti, però ci, se non altro, vogliamo cominciare ad aprire un argomento che ci sta molto a cuore, che è quello dell'egemonia culturale. Allora, che cosa significa egemonia culturale? Ci siamo resi conto che, chiamiamolo il sistema, il dominio, il sistema di potere, chiamatelo come volete, in questo caso la classe al potere, il sistema capitalista, il patriarcato, che cosa fanno? Riescono, attraverso meccanismi collaudati, che passano attraverso i media, i sistemi di comunicazione, ma anche attraverso il propagandare delle idee con il comune sentire, riescono a far passare i propri valori e ad attraversare la società tutta con questi valori, non solo la società tutta, ma addirittura i movimenti antagonisti. Questo noi come femministe l'abbiamo sentito in maniera particolare in questo momento riguardo a un aspetto delle nostre lotte, un aspetto delle nostre problematiche. Se ci fate caso, se vi siete messi un attimo a riflettere o se avete sentore dei dibattiti che stanno passando, questi sono, nell'ambito femminista e femminile, incentrati sulla problematica del maschile. Cioè, anche i maschi hanno tutta una serie di problemi, ci sono i maschi che sono sensibili e che quindi, con cui una dovrebbe intrattenere rapporti o comunque confrontarsi. Ci sono pubblicazioni, ci sono convegni, anzi ci sono due convegni che ci hanno colpito particolarmente e che sono stati lanciati dal comune di Venezia. Allora, a Venezia due concorsi, quello che le donne non dicono degli uomini, questo è il titolo del concorso che scade il 15 febbraio. La compagnia di Arti e Mestieri organizza il concorso con invito a mandare le proprie storie e racconti di tutti i generi, autobiografie, poesie, racconti, filastrocche, non più di 4 cartelle. L'altro concorso si intitola Uomo non si nasce, si diventa. E tu che genere di uomo sei? Scade il 12 aprile nell'ambito del video concorso Pasinetti. Il Centro Donna offre un premio legato alla riflessione sulle mascolinità, sull'esperienza maschile nell'ordine patriarcale e sulla presunta crisi. Questo appunto appunto. Allora, il dibattito anche all'interno del femminismo in questo momento è abbastanza monopolizzato dal problema del rapporto con il maschile e dal problema che il maschile si pone di adeguatezza, inadeguatezza, cioè. Addirittura sono uscite delle pubblicazioni che parlano della violenza maschile contro le donne in termini di recupero o di comprensione o di aiuto dei maschi violenti. Vengono addirittura proposti una specie di centri di recupero dei maschi violenti, vengono proposti dei percorsi di recupero dei maschi violenti. Allora, voi direte, così di primo acchitto, come succede sempre in queste occasioni, una potrebbe dire, i maschi si preoccupano di queste problematiche, quindi della loro maschilità, della loro mascolinità, del loro magari atteggiamento violento autoritario, e quindi è una cosa buona. E quindi dibattere di questo potrebbe sembrare una cosa buona. Però noi ci dobbiamo fermare un attimo e riflettere, ci dobbiamo fermare un attimo, perché quello che ci dovrebbe guidare è sempre l'analisi materialista, l'approccio materialista del presente e della storia, e l'analisi della società dovrebbe essere sempre informata a un'analisi di come funziona strutturalmente la società. non è mutata la struttura della società. L'oppressione maschile e patriarcale è strutturale, fa parte dei meccanismi con cui questa società funziona. Quindi il fatto che venga dimenticato questo e venga e si tenti di trascinarlo sul piano interpersonale, cioè sul piano del rapporto fra i sessi, della convivenza civile fra i sessi, del rapporto della reciproca comprensione, della disponibilità del maschio, non fa altro che parte di quel progetto in cui il neoliberismo è maestro e che sta portando avanti da tanti anni, della riduzione della lotta di classe a una conflittualità, a un sereno confronto tra le parti in causa, della conflittualità fra i sessi alla convivenza civile, cioè all'abolizione della conflittualità sociale, della divisione in classi della società, e quindi a una perversa un perverso addomesticamento della storia e della memoria, perché la memoria del movimento femminista è una memoria di lotte, di ribellione, di tentativi di liberazione, non di rapporto civile fra i sessi. Non ha niente a che fare con il rapporto civile fra i sessi. La nostra oppressione è strutturale. È come se noi potessimo trovare un accordo col padrone delle ferriere, che invece di essere cattivo è il padrone delle ferriere buono, e noi trovassimo una convivenza e un sereno confronto col padrone delle ferriere. Non è con questo che noi vogliamo dire che il nostro rapporto con i maschi non esiste, ma noi dobbiamo sempre ricordarci dell'oppressione, del nostro tipo di oppressione, e l'oppressione della strutturalità dell'oppressione di genere. Quindi qui non c'è nessun rapporto interpersonale che prende sopravvento sull'oppressione strutturale. Il rapporto personale sereno è un grande vantaggio, come l'emancipazione. Non è che ci fa schifo un rapporto personale sereno o una disponibilità del maschio, ma questo non cambia niente. Trascinare la conflittualità con il patriarcato a un confronto con l'oppressore è un gravissimo errore. Anche perché dobbiamo sempre ricordarci che il nostro ruolo non è un ruolo di cura, e non ci dobbiamo occupare noi dell'educazione delle persone che crescono e che vivono questo mondo. Esatto. E non vogliamo un ruolo di cura, quindi non ci vogliamo occupare di queste cose, perché sappiamo che è un problema del sistema, della società, del patriarcato, del capitalismo, che questo funzioni così, che ci sia una violenza puntata sul genere e non a caso su altro, e quindi, cioè, per scardinarlo non ce ne possiamo occupare noi, cioè dobbiamo anzi anche allontanarci da questa logica che ci spinge molto spesso a dire vabbè però poverino, vabbè però magari lo possiamo aiutare. No, cioè a me se un uomo è violento non mi interessa recuperarlo, e tanto per precisare non mi piacciono nemmeno i paralleli, perché insomma tutte noi di coordinamento siamo ovviamente contro il carcere e contro ogni sistema di oppressione, e paragonare il fatto che molto spesso si parla di misure alternative, ovviamente perché insomma nel nostro immaginario purtroppo siamo lontani da un mondo senza carcere, quindi a volte si tenta di fare dei passaggi mediani, no, per arrivare poi all'obiettivo politico, che è non avere mai più nessun carcere, nessun CIE, e non quadra in realtà il parallelo quando si parla dell'uomo violento, perché qua si parla di, diciamo in senso esteso e con un po' di virgolette, di cultura patriarcale che in realtà interagisce poi con quello che è il sistema economico, e fa sì che gli uomini siano violenti con le donne, che le odino, sempre per riprendere il titolo di un film famoso, e a noi non sta bene questo, non sta bene il sistema, e quindi lottiamo contro il sistema, non aiutiamo il sistema a farci meno male. Esatto, perfetto. Infatti vi leggo tanto per dire due righe di un libro, ma ci sono tante pubblicazioni in questo senso, proprio perché è l'egemonia culturale che ci attraversa del dominio, del sistema dominante, che ci porta a dibattere su questo tipo di cose, no? Dice ragioni e motivazioni che spiegano i comportamenti violenti degli uomini, ponendo altresì la necessità di un cambiamento di ottica tale da trasformare il maschile da problema a risorsa nelle azioni di contrasto alla violenza. Un mutare dello sguardo rivolto non solo ai singoli, ma soprattutto ai contesti sociali, professionali e culturali. Cioè, non esiste un cambiamento di ottica, esiste un cambiamento di struttura, per cui i ruoli sessuati, se cambia il sistema socio-economico, forse hanno qualche speranza di cambiamento. Ma il maschile, da trasformare il maschile da problema a risorsa nelle azioni di contrasto alla violenza, significa bypassare completamente il problema strutturale. È come se il maschile fosse un problema per qualche ragione, non lo so di quale tipo, mentre il maschile è semplicemente dominante e ha in questa strutturazione sociale il ruolo dominante. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time. E come spunto di riflessione vi volevamo lasciare con utilizzando un testo che abbiamo trovato su Micromega, tradotto da il The Guardian, dai quaderni di San Precario. L'articolo è di Nancy Fraser, come il femminismo divenne ancella del capitalismo. Se lo googlate è piacevole, insomma, da leggere, da dei buoni spunti di riferimento. Una parte che mi sembrava si collegasse bene a quello che stavamo dicendo con Eli era La seconda ondata del femminismo è emersa come critica al capitalismo di prima maniera, ma infine è diventata ancella del capitalismo contemporaneo. Col senno di poi possiamo sostenere che il movimento di liberazione delle donne ha contemporaneamente puntato a due diversi futuri possibili. In un primo scenario esso ha disegnato un mondo in cui l'emancipazione di genere andava di pari passo con la democrazia partecipativa e la solidarietà sociale. Nel secondo ha promesso nuove forme di liberalismo in grado di garantire alle donne, così come agli uomini, i beni dell'autonomia individuale, un ampliamento delle scelte e l'avanzamento meritocratico. Il femminismo di seconda generazione è stato, insomma, ambiguo in questo senso, compatibile con entrambe le rappresentazioni della società, dunque suscettibile di due diverse concezioni della storia. Quindi, a parere di Nancy Fraser, questa ambivalenza del femminismo in questi ultimi anni si è risolta a favore della seconda impostazione, quella liberista e individualista, ma non perché noi donne siamo state vittime passive di seduzioni neoliberiste, al contrario, noi stesse abbiamo direttamente contribuito a far raggiungere al capitalismo questo stadio di sviluppo. E volevo aggiungere una cosa a quello che stava leggendo Noemi sulla Nancy Fraser, per un motivo. Pur condividendo l'articolo in linea di massima generale, c'è una cosa che bisognerebbe chiarire, perché quando lei parla di femminismo dovrebbe specificare che sta parlando del femminismo socialdemocratico, perché non tutto il femminismo ha fatto questo percorso, non tutto il femminismo si è prestato, anzi direi un'altra cosa, che il femminismo socialdemocratico, che è il responsabile di quello di cui parla nell'articolo Nancy, non so quanto possa essere dichiarato responsabile non cosciente. Secondo me fa parte proprio di un percorso di addomesticamento dei principi del femminismo che il sistema ha portato avanti. Siccome ha telefonato una compagna poco fa dicendo che il termine sistema non è un sistema, non è un termine adatto, perché addirittura è stato usato e strumentalizzato in altri contesti anche di destra. Io ritengo che il termine sistema sia molto adatto invece a definire il sistema di potere che ci riguarda in questo momento, è che quello capitalista neoliberista, proprio perché è un termine che riguarda una impostazione ideologica globale. Comunque, al di là di questo, dicevo che nell'articolo di Nancy bisognerebbe prima di tutto specificare di che femminismo sta parlando, perché altrimenti anche qui ritorna al discorso che facevamo prima dell'egemonia culturale della borghesia, che tende a far passare in questo momento il femminismo come negativo e tende al superamento del femminismo. Allora, vi ricordo i nostri indirizzi: coordinamenta con due occhi @autistiche.org, e per ascoltarci in streaming www.ondarossa.info. E ricordo che domani, davanti all'ambasciata francese, presidio all'angolo di Viale dei Baullari dalle 11 alle 14. E comunque una cosa importante, vi salutiamo, ciao a tutte e a tutti, un saluto particolare a chi è privato e privato della propria libertà, ancora buon anno e abbiamo ancora tante cose da dire sull'egemonia culturale, ci torneremo su. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. big time. This is not really, this is not really happening. This is not really happening.